A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Varossi in redazione, Fabio Cantadore in regia. È una puntata speciale che ci aspetta per questo venerdì di agosto. 800 24 00 24, un numero di telefono, un numero verde, cominciate già a comporlo. Perché stiamo per affrontare l'argomento cult dell'estate, secondo me, ma a ragion veduta. Ho visto, ricordo, Filippo Galli marcare Platini al Comunale di Torino in un pomeriggio d'autunno di un sacco di anni fa. Poi l'abbiamo visto al Milan di Nils Liedholm, del maestro Nils. Poi l'abbiamo visto vincere tutto, 5 scudetti, un sacco di Coppe dei Campioni, oltre al resto. A un certo punto, personalmente, ho sperato di vederlo sulla panchina del Milan, della prima squadra. Poi è andata diversamente e forse alla fine è stato un bene per il futuro rossonero e chissà anche del calcio italiano. Filippo Galli, buon pomeriggio, grazie. Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti, parto con questa domanda: quanto sei stato vicino sul serio a quella panchina, alla panchina prima squadra quest'estate? Ma a dire la verità non lo so neanche io. Sicuramente è stato fatto il mio nome da parte del presidente, poi le cose sono andate diversamente, però va bene così, come dicevi tu. Sicuramente sarebbe stata un'esperienza per me, che sono un milanista da sempre. Voleva dire coronare un sogno, però anche questa possibilità di continuare il lavoro iniziato all'inizio della scorsa stagione con il settore giovanile credo che davvero sia gratificante, difficile, però sia un po' qui, ecco, il futuro del club, della società, perché è indubbio che dobbiamo cercare di trovare talenti, di crescerli, di avvicinarli il più possibile alla prima squadra. Un compito difficile che richiede anni, però sì. Si deve cominciare, insomma. Quest'estate traumatizzante per il calcio italiano, il problema dei settori giovanili e dei giovani che da noi non trovano spazio, non solo nel calcio, è diventato quasi assillante. Tu sei un prodotto, come dicevo prima, di un settore giovanile che produceva grandi giocatori, cioè quello del Milan. Cosa è cambiato? Sembra banale, ma cosa è cambiato rispetto ad allora? Solo una questione di soldi e di investimenti o c'è dell'altro? Ma guarda, bisogna dire alcune cose. Indubbiamente noi a suo tempo fummo favoriti da delle circostanze particolari, un Milan che indubbiamente allora non aveva i mezzi che poi ha avuto negli anni successivi per poter andare a comprare campioni già fatti, quindi per necessità doveva crescere al proprio interno giocatori che si affacciassero poi alla prima squadra, vedi i vari Evani, Incocciati, Battistini, insomma, adesso sicuramente me ne dimentico qualcuno, beh, poi più avanti i Maldini, i Costa Curta, certo. e gli Albertini. Poi il Milan con l'arrivo del presidente Berlusconi, quindi con una possibilità, con una disponibilità finanziaria enorme, ha fatto una politica diversa, una politica che ha pagato, ed oggi in un momento di difficoltà, direi economica generale, e quindi con un cambio di strategie anche obbligato, se vogliamo, sì. ci dobbiamo gioco forza guardare indietro per quello che magari quegli errori che sono stati commessi e cercare appunto di ovviare a quanto si è sbagliato per recuperare il terreno perso. È chiaro che non è facile recuperarlo in breve tempo, perché questo, soprattutto nel settore giovanile, come del resto un po' in tutti i settori, c'è necessità di programmazione, c'è necessità di fare un discorso davvero globale che riguardi sia lo scouting, sia la preparazione degli allenatori istruttori, certo, insomma, di creare davvero tutta una struttura che possa far crescere i giovani calciatori. Sì, è un lavoro lungo che va fatto in profondità. Io ho una domanda che mi arriva via SMS da Lori, da Milano, una domanda a Filippo Galli: come mai questa crisi di difensori? Aggiungerei, Filippo, per ampliare un attimo il discorso, è vero che oggi i parametri fisici nel reclutamento sono così determinanti? È vero, come molti accusano, che non si lavora più sulla tecnica e si privilegiano altri parametri? Per quanto ci riguarda, qui al Milan l'aspetto tecnico ha ancora un valore, una valenza importantissima. Noi è chiaro che nello scouting possiamo anche guardare l'aspetto strutturale del giocatore, del giovane, del bambino, però lo si fa generalmente per i ruoli difensivi, per il ruolo di due centrali difensivi che ovviamente poi considerando proprio la specificità del ruolo c'è necessità di avere qualche centimetro in più, però noi nello scouting, quindi nei ragazzi, nei bambini che hanno quindi che escono dall'età della scuola calcio, 8-9 anni, quello che guardiamo è davvero che il bambino ci deve dare la cosiddetta scossa, come diciamo noi, cioè deve darti dal punto di vista della tecnica, del colpo, della capacità di fare un qualcosa che vada un po' al di fuori dagli schemi. Ecco, io credo che si debba partire da lì, e tutto il nostro settore giovanile poi seguendo negli anni successivi pone grande attenzione in quello sì. che è la capacità del ragazzo e del bambino di riuscire a stare col pallone, a certo. convivere col pallone, a divertirsi col pallone e avere il coraggio. Noi ad esempio nelle fasce d'età più piccole, i bambini di 8-9 anni, come dicevo, quando ricevono palla chiediamo sempre loro di fare un gesto tecnico particolare, il doppio passo per saltare l'uomo piuttosto che una veronica, ecco, per dirti la specificità che richiediamo ai nostri bambini, ai nostri giocatori, perché riteniamo che poi il succo di tutto sia davvero il gesto cioè, tecnico, anche perché è forse chiaro. Solo così si divertono, no Filippo? Non sì, perdono sì, il gusto, non perdono il gusto, assolutamente non perdono il gusto del piacere di stare con gli altri, il piacere di divertirsi, di crescere, e ovviamente poi siamo una società che fa calcio, e quando si passa poi dall'attività di base, dove c'è per forza un aspetto anche sociale, no? Sì. Dove cerchiamo di dare un minutaggio anche a tutti i ragazzi, fermo restando che siamo una società professionistica, però poi quando si passa un'attività agonistica c'è ancora di più certo. l'attenzione a quelle che sono le specificità dei ruoli, alla crescita del ragazzo per un determinato ruolo, e alla fine noi insomma facciamo calcio, no? E quindi il nostro obiettivo è creare giocatori, crescere talenti, e ripeto, non è facile, è più facile a dirsi che non a farsi. No, non c'è dubbio. Si dice anche che soprattutto da noi la necessità del risultato anche a livello giovanile sia estremamente penalizzante, è vero? Beh, sai, quando porti il nome Milan, Inter, Juventus, comunque le società che vanno per la maggiore, è chiaro che ci si aspetta anche il risultato, ma è un po' nelle cose, sì, e quindi però il risultato almeno da noi deve arrivare sempre attraverso lo sviluppo di un gioco propositivo, attraverso la crescita di ogni giocatore, la partecipazione di ogni giocatore al gioco. Noi vogliamo che il gioco venga costruito da dietro, con i difensori, si passi attraverso i centrocampisti, proprio perché tutti si sia coinvolti, si abbia la possibilità di avere un contatto con il pallone il più a lungo possibile nel corso di una gara, perché questo poi, ripeto, aumenta l'autostima dei ragazzi, sì, dei sì. giovani, e quindi tutto viene poi di conseguenza. Il risultato deve essere davvero vincere, deve essere una conseguenza di una crescita personale, e che questa crescita personale deve sempre essere poi al servizio della squadra. Certo, deve essere la conseguenza del lavoro svolto e non il fine ultimo. Ti chiedo ancora questo prima del traffico, poi cominciamo anche a parlare con gli sì. ascoltatori. Un altro punto da toccare. Tu dicevi prima siamo una società professionistica, ed è verissimo. Un altro grande equivoco di questo momento è settori giovanili multietnici, squadre professionistiche che investono su ragazzi non italiani, e tutti a dire ma così non aiutiamo la nazionale, così non aiutiamo il calcio italiano, eccetera eccetera eccetera. Questi sono semplicemente i tempi, e voi siete professionisti del calcio, siete professionisti dello sport, questo non va mai dimenticato. Sì, ma io direi noi abbiamo l'obbligo di andare a trovare il talento in qualsiasi parte del mondo, però sì. Come Milan da questa stagione abbiamo dato un impulso notevole alle nostre scuole calcio, tant'è vero che siamo passati da circa 25 scuole calcio sul territorio italiano, oggi ne contiamo più di 70, e attraverso le nostre scuole calcio, tra le altre cose, vogliamo fare anche scouting, vogliamo appunto, come piace dire a noi, colorare l'Italia di rosso-nero, quindi per poter avere la possibilità davvero di andare a trovare talenti attraverso le nostre scuole calcio. Dopodiché c'è tutto, ci sono tanti discorsi normativi, perché fino ai 14 anni i ragazzi non possono essere trasferiti da noi, se provengono da fuori regione, ma credo che sia anche giusto, perché portarli via dalle loro famiglie in età così giovane credo che sia profondamente sbagliato. Ecco perché è importante che le nostre scuole calcio abbiano degli standard qualitativi importanti, in modo tale che il ragazzo, una volta che è arrivato ai 14 anni, quando finalmente si è scelto, può venire qui da noi a Milano e presso i nostri centri, non ha accumulato un gap, una differenza tecnica con chi invece ha avuto la fortuna di venire da noi troppo grande. Ecco. Però questo può essere un discorso davvero qui, potremmo passare dei pomeriggi interi a discutere. Noi, come dicevi tu, il fatto di avere dei settori giovanili multietnici succede per forza, perché comunque ci sono ragazzi di colore, ragazzi anche di provenienti magari dall'est europeo, che sono qui per scelte dei loro genitori, che sono venuti a vivere, ad abitare qui per necessità lavorative o per altre necessità loro, e quindi ci troviamo magari con un settore giovanile dove perché i tempi sono questi, andiamo di pari passo con il mondo che ci circonda. Ma basta guardare nelle scuole, in una classe di scuola elementare ormai ci sono ragazzini che provengono da tutto il mondo, e nel calcio non può essere diverso. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. A tempo di sport. Sempre collegato con noi Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan. Achille da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare questo intervento, premetto, sono interista e chiaramente da tifoso sono la persona più felice di questo mondo. E però sono rimasto amareggiato dal comportamento della società nei confronti della vendita e la cessione di Balotelli, sì. Ovvero l'età, l'Inter è una squadra con un'età media che è vicina ai 30 anni, per l'amor del cielo, campioni, quello che vogliamo, però il bello di un tifoso, il bello di una società che finalmente è tornata a vincere l'Europa, credo che sia quello di poter ragionare e investire in prospettiva se vogliamo tornare a essere leader a livello europeo se non mondiale, altrimenti c'è il rischio che rimangano episodi sporadici, perché non si crea un gruppo, perché comunque ci si invecchia, non ci si può affidare ai Zanetti che ha 37 anni. No, ma io capisco quello che lei vuole dire. Insomma, da tifoso dell'Inter, dopo aver vinto tutto, vede partire quello che io negli ultimi giorni ho definito il più forte ventenne del mondo, ma confermo e sottoscrivo quanto dico. Lui è pazzo, insomma, mi sembra che questi siano i giocatori cult a livello giovanile. Vederlo partire, come scrivono in molti oggi, ad esempio Roberto Beccantini sulla Stampa, e giro la considerazione a Filippo Galli, è una sconfitta per il calcio italiano, anche se lautamente pagata. Filippo, è una sconfitta il fatto che Balotelli vada all'estero? È una sconfitta. Io credo che l'Inter abbia valutato davvero la situazione sotto ogni punto di vista, e se è arrivata a prendere questa decisione è chiaro che ripeto, sia una decisione, seppur dolorosa, ampiamente ponderata. È chiaro che perdiamo, il calcio italiano perde all'interno del suo campionato, come dicevi tu, come dicevate voi, il più grande talento di quest'età, classe 90, e quindi credo che classe 90 come lui non ce ne siano. Si è arrivata a questa decisione per dei percorsi che adesso non spetta a me andare a raccontare, a dire, anche perché nello specifico non li conosco. Non so se è una sconfitta del calcio italiano. Diciamo che Balotelli, per fortuna nostra, ha giocato in nazionale, potrà essere sempre servizio alla nostra nazionale, e questo poi alla fine è quello che conta. È chiaro che il tifoso interista è in dubbio che si veda privare di un talento, di un giocatore che è cresciuto nel loro settore giovanile, e in qualche modo si possa rammaricare. Però oggi forse l'Inter sta vivendo quello che il Milan ha vissuto nella seconda metà degli anni 80, e quindi con una disponibilità importante sul mercato, ed è vero che perde un giocatore vendendolo a 28 milioni di euro, 30 milioni di euro quelli che sono, però forse ha ragion veduta, ecco. Sì. Avranno fatto i loro conti dopo un campionato in cui ha vinto, dopo una stagione in cui ha vinto tutto. ha vinto ha vinto tutto. E direi che poi dobbiamo dire che l'Inter è una società che ormai da 6-7 anni ha cominciato a investire anche nel settore giovanile, quindi direi che da questo punto di vista sia ineccepibile quello che ha fatto l'Inter nel settore giovanile. Tanto ha cominciato a produrre, al di là di Balotelli e Santon, comunque altri giocatori che vedremo ora in giro quanto sono, valgono. Sono in giro, che anche qui potremmo aprire un'altra parentesi, perché il fatto che i giocatori siano costretti poi a... ad andare a giocare al di fuori del club, il problema è che poi è lo stesso club, Inter, Milano, Juventus che sia, dover pagare gli ingaggi, insomma è una situazione in cui davvero andrebbe rivista, forse il modello spagnolo potrebbe essere il riferimento importante per noi, per far crescere i nostri ragazzi e perché non vengano, non si perdano, ci dia più tempo a loro di crescere. Ecco. Sì, e in questo paese tu sai benissimo, Filippo, è molto, molto difficile, no? Ma non solo nel calcio, è molto difficile come mentalità lasciare spazio ai giovani. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che non nel calcio, in altri settori, la poltrona non la molla fino a tarda età. È un problema generale, però Filippo, da questo punto di vista una soluzione, l'altro giorno parlavamo con Berrettini, no? Che diceva che il campionato primavera non aiuta nella crescita dei giocatori perché è ancora un campionato giovanile. In Spagna, tu dicevi, c'è questa usanza, questa regola che permette di iscrivere una squadra B a tornei seniores ma inferiore alla Serie C, per dire. Questa potrebbe essere una soluzione in Italia. Diciamo che in Spagna, se il Barcellona ha una seconda squadra che parte a giocare dalla serie C, dalla terza divisione loro, non potrà mai arrivare a giocare, anche se dovesse essere promossa nella Serie A. E quindi questo ci sta, però lì hanno la possibilità i ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile, dopo aver fatto l'ultimo anno di juvenile, di andare già a confrontarsi con squadre, quindi con colleghi, con giocatori che giocano già nella terza divisione, quindi in quella che è la nostra Serie C. E io credo che qui si debba andare per forza in questa direzione, perché Berrettini dice una cosa giusta: il campionato primavera è ancora un campionato di settore giovanile, anche se con la possibilità di far giocare qualche fuoriquota. Ci sono delle squadre che hanno un po' meno l'aspetto di settore giovanile, però ancora io dico sempre, io quando allenavo la primavera i miei ragazzi dicevano: ragazzi, siete in primavera ma di fatto non avete ancora cominciato a giocare, perché poi il calcio è vero quello che dovete affrontare andando fuori in prestito o comunque facendo dei percorsi diversi da quelli che sono quelli fatti all'interno del club, della società, quindi qui bisogna davvero lavorare tutti assieme, trovare una soluzione perché si possa, il Milan possa avere, parlo personalmente, non abbiamo mai affrontato all'interno della società questo tipo di discorso, però magari una seconda squadra che possa fare un campionato magari della Lega Pro, così come l'Inter, come la Juve, perché questo poi, perché cosa succede? Che molti giocatori poi si perdono, perché magari non puoi pensare di fare il contratto a tutti, quindi qualche giocatore che ha bisogno di più tempo, quindi un percorso, mi riferisco mai a Ardemagni, che è un ragazzo nostro che poi negli anni si è liberato dal Milan, però ha avuto bisogno di un percorso più lungo, ma ora è arrivato, insomma è arrivato anche lui in Serie A, quindi dovremmo cercare magari di riuscire a dare più spazio a questi ragazzi attraverso questi campionati di Lega Pro, per non perderli, per valutarli da giocatori e non più da situazione in cui i giocatori nostri, i giovani che escono e che vanno a giocare in squadre di prima, di seconda divisione della Lega Pro, i contratti 9 volte su 10, 8 volte su 10 vengono pagati dai club più importanti, quindi da Inter, da Milan, devi pagare magari il giocatore per giocare da altri, quindi tanto vale tenerlo lì, farlo giocare per una squadra tua e valutarlo tutte le domeniche. Una squadra con un allenatore scelto dalla società, sicuro. Voglio dire, credo che sia, se vogliamo fare davvero qualcosa, cambiare davvero qualcosa, dobbiamo andare in questa direzione e spero davvero che questo particolare momento in cui si parla di settore giovanile eccetera eccetera non si sgonfi non appena il campionato inizia, e quindi ci siano tutti i fari puntati soltanto sulle prime squadre, come giusto che sia, per l'amore del cielo, da parte delle televisioni, però giornali, televisioni dovrebbero cominciare a dare anche più spazio. Guarda, noi siamo una radio, possiamo anche prendere degli appuntamenti, anche per l'inverno, non abbiamo mica problemi. Poi viene, non per piaceria, ma vi ascolto spesso, non solo nelle rubriche sportive. Ma certo, lo so benissimo. Luca da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiedere chiedervi questo: è vero che nell'iscrizione alle liste UEFA ci deve essere un numero di giocatori cresciuto nel settore giovanile? E se è vero, perché almeno io non lo sapevo, me l'ha detto un amico l'altro giorno, quindi non lo so se è vero. Se è vero, a che serve fare una lista del genere se poi non si obbliga un minutaggio di gioco per questi giocatori? E ultima questione, anche in Italia c'è un obbligo del genere nell'iscrizione della rosa? Non ho idea. No, non risulta che ci sia. Quella dell'UEFA è così, fatta la legge, trovato l'inganno, come spesso succede. Sì, c'è questo obbligo di inserire i giocatori che abbiano fatto almeno 3 anni nel nostro, all'interno del proprio settore giovanile, o comunque nell'ambito di un settore giovanile italiano, però ecco, alla fine di fatto non è che se ne, che poi questi giocatori abbiano la possibilità di avere un minutaggio obbligatorio, no? Assolutamente questa non è una soluzione per i giovani, per dare più spazio ai giovani. La seconda domanda non l'ho capita, mi diceva se è vero che anche c'è una regola. Se c'è una regola simile nel nostro campionato, ma non risulta che ci siano dei paletti per quanto riguarda la composizione di rosa nel nostro campionato, ma anche questo di proteggere eccessivamente i prodotti del settore giovanile, garantirgli un posto di lavoro, io non lo trovo mica giusto, perché devono giocare se se lo meritano, se sono bravi, se hanno voglia di arrivare. C'è prima un ascoltatore che mi ha mandato un messaggio che ricordava la tua partita col Barcellona a finale di Coppa dei Campioni 4-0, grande cuore, eccetera eccetera, però quella voglia lì io non riesco mica tanto a leggerla negli occhi dei giovani italiani. Quella voglia di arrivare. Di oggi, sì. Non lo so, sai, sono cambiate tante cose, però io credo che nei ragazzi ci sia anche qui, anche oggi, ripeto, poi dipende dal tipo di esperienza, di estrazione da cui ogni ragazzo viene, non possiamo fare di tutto un'erba un fascio, ci sia sempre da parte di qualcuno la voglia di lottare, di arrivare, di sacrificarsi. Ripeto, non è facile, perché è il campionato primavera, come abbiamo detto poco fa, è un campionato ancora di settore giovanile, per cui c'è la necessità, perché poi fare giocare il Messi saremmo tutti bravi, no? E invece sono quei giocatori che sono dei buoni giocatori, che ci vorrebbe più coraggio, ci vorrebbe prendere loro più spazio, ma è normale che anche un allenatore può avere più coraggio nell'impiegare questi giovani, se almeno questi giovani vengono da un campionato, come dicevo prima, professionistico di livello inferiore, ma già importante per loro, per mettere minuti, minutaggio, come si dice, contro giocatori adulti, o che comunque perché sai, un giovane ha una mentalità del giovane, quando si trova a dover lottare per un posto contro un giocatore che fa già di questa attività il proprio lavoro, e allora lì si scontra con realtà difficili, con realtà dure, e qui viene fuori la capacità di soffrire, la capacità di avere il cosiddetto carattere, e la voglia davvero di arrivare. Quando vai a fare la guerra con quelli sgamati, allora, come si dice a Milano, allora lì vedi se hai la stoffa oppure no, se hai abbastanza voglia per fare quel lavoro, oppure è meglio che ne cerchi un altro. Filippo, io ti ringrazio. Grazie a voi. Prendiamo altri appuntamenti allora, come promesso. Assolutamente sì, buon proseguimento. Grazie, un abbraccio a Filippo Galli. Arrivederci. Con cui abbiamo chiarito anche diversi, io credo, diversi nodi che in questi giorni sono rimbalzati attraverso questi microfoni. La borsa, poi torniamo a parlarne insieme, a cominciare da Stefano, provincia di Verona, 80024 0024, il numero verde. A tempo di sport. C'è chi mi scrive che non è vero la mia cantilena secondo cui gli italiani non hanno voglia. Benissimo, lo dimostrino allora senza lamentarsi del numero eccessivo degli stranieri. Perché io sono per la libertà, per l'apertura totale dei mercati sportivi per gli sport professionistici. Dunque, non è vero che non hanno voglia di soffrire, di arrivare, lo dimostrino, poi ne riparliamo. Anche in chiave nazionale, perché sennò diventa tutto un alibi, ci sono troppi stranieri, non è vero, sono pochi buoni giocatori italiani, questo è vero. Stefano, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, credo che lei abbia risposto molto meglio di quello che potevo dire io, cioè, parliamoci chiaro, un ragazzo italiano non ha quella voglia di soffrire che può avere un ragazzo che arriva dall'estero, dove purtroppo hanno pochi soldi, mangiano male, vivono in qualche modo, e vede nel calcio, o come in altri campi della vita, un modo per sollevarsi. i nostri ragazzi italiani, fra cui metto anche mio figlio, la voglia di soffrire non ce la possono avere non avendo mai saltato un pasto in tutta la loro vita. Sì, però Stefano, al di là dei problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, non è soltanto questo, però lei c'entra il punto, che è quello che condivido io, anche guardando ciò che succede in altri sport e anche all'estero. Come sa, a me piace il basket, come sa, secondo me la culla del basket europeo resta storicamente la Jugoslavia, e lì appunto lo sport è qualcosa di sacro, è qualcosa per cui impegnarsi 7, 8, 9 ore al giorno tutti i giorni per arrivare, per essere in cima, per diventare dei professionisti, per guadagnare, per tutto questo, insomma, per la voglia di fare di un hobby, un'attività, un lavoro vero. Non è tutto dovuto, non può essere tutto dovuto, non possiamo, secondo me, proteggere i posti di lavoro in nome della nazionale o di giocatori italiani, eccetera, eccetera. Non, dobbiamo aiutarli certamente, ma come ho detto mille volte, in strutture e in istruttori, dobbiamo aiutarli certamente i nostri ragazzi, però poi devono camminare da soli, se vogliono, nel mondo professionistico, sia chiaro. Emanuele da Como, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo salutare Filippo Ugali, ma ho sentito che è andato via. Ho avuto l'onore di essere marcato da lui. Io davvero? Facevo il dilettante a Gavirate. È stata la prima partita di Gullit e Boban, in panchina c'era Capello. Comunque, Upperbacco. Sì, Upperbacco. Un grandissimo giocatore. Insomma, ho la sua maglia come ricordo. Io mi volevo riallacciare un attimino, so che vabbè è il tormentone dell'estate su Balotelli. Sì. La domanda era anche per Filippo Vagli, ma comunque è importante anche la sua versione. Chiedevo se secondo lei la decisione della società Inter, io premetto abito vicinissimo alla Pinetina, Piano Gentile, un po' vedo un po' i giocatori, sono un po' dentro diciamo in questo ambiente, e secondo lei se la decisione proprio di cedere Balotelli, a prescindere dal discorso economico, è molto importante, non sia dovuto anche al discorso del feeling con i tifosi, cioè domanda, se il Balotelli mi fa una scenata come col Barcellona, non si rompeva qualcosa e rovinava un po' la stagione, un Balotelli magari segregato in panchino, comunque una cessione poi più avanti sarebbe stata magari problematica, secondo la mia opinione. Ma guardi, secondo me si erano spezzati anche dolosamente, se vogliamo, un po' tutti i rapporti che legavano Balotelli a quello spogliatoio e all'ambiente interista, dolosamente, perché come ho detto ieri ho avuto l'impressione che in tutta questa vicenda Mourinho ci abbia un po' marciato, nel senso che a un certo punto della stagione Balotelli era diventato il capro espiatorio, la pecora nera all'interno di quello spogliatoio. Insomma, è chiaro che i rapporti tra questo giocatore e l'ambiente interista in senso lato si erano consumati. Dunque la soluzione ultima è stata questa di cederlo al miglior offerente, 28 milioni di euro più bonus, e Balotelli va al Manchester City. Io continuo a credere che per il calcio italiano sia una perdita non da poco, però ha ragione alla fine Prandelli, ed è una verità molto amara, meglio che vada a giocare nel titolare nel Manchester City piuttosto che fare la panchina nell'Inter. C'è chi scrive: se Machedi in Italia non gioca, in Inghilterra gli fanno i tappeti rossi, ma quale vittimismo, nel calcio come nel lavoro in Italia sfondare è più difficile. Vero. E allora che vadano i nostri ragazzi a provare a sfondare all'estero, come sta provando a sfondare Macheda, come proverà a sfondare Balotelli. Se non ci riescono in Premier League, che vadano in Francia, se non riescono in Spagna, in Francia, che vadano in Austria, se non riescono in Austria, che vadano in Lussemburgo, che vadano in altri campionati. Poi vediamo quanti riescono a sfondare. Alla prova dei fatti, finora ci sono riusciti in pochissimi. E anche questo qualcosa vorrà pur dire. Stefano, provincia di Lucca. Sì, buongiorno. Volevo portare una testimonianza, prima ho sentito parlare di Filippo Galli, giocatore giovanile. Siccome io sono cresciuto praticamente nella glosa Provercelli, che purtroppo non c'è più adesso, avevamo un dirigente, il signor Bellomo, che quando non veniva a vedere le partite, ancora prima di chiederci cosa avevamo fatto, ci chiedeva come avete giocato. E ripeto, avevamo come istruttori di calcio gente come Antonio Montico, Giampiero Sandro, e l'allenatore della prima squadra in quei tempi era Giovanino Sacco, che i ragazzi li tirava su in prima squadra a flotte. E collegandomi anche al discorso del settore giovanile, sicuramente adesso c'è molta meno voglia di andare avanti, perché io mi ricordo che quando magari venivo chiamato in prima squadra facevo i salti mortali o anche magari dagli allievi alla Beretti i salti mortali per adarci. Adesso invece vedo un po' di efficienza. Sì, sì Stefano, certamente questo è un caso personale significativo, ma possiamo raccoglierne molti e non farebbero comunque una prova. È una sensazione quella che oggi ci siano molte altre cose magari da preferire a 8 ore di allenamento su un campo, magari una può bastare, poi ci sono molte altre distrazioni, poi magari si scelgono altre strade, poi non lo so se i ragazzi italiani adesso hanno effettivamente voglia di fare di salire su quella scala molto difficile che porta a giocare tra i professionisti, senza scorciatoie, perché di scorciatoie non ce ne sono. Volevo cambiare argomento e parlare con il capitano di una nazionale, cioè quella di basket. Marco Mordente, buongiorno. Ciao Marco. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno Marco. Senti, io credo di potermi permettermi di parlare con te senza peli sulla lingua, perciò ti dico la mia sensazione su questa nazionale da lontano. Posso? È strano che parli senza... sapere sulla lingua, non lo fai mai. Di solito no, invece sei... Di solito faccio i giri di parole. Fare dei giretti. Senti, la mia sensazione è che con Israele e Lettonia abbiate giocato con un gorilla sulla spalla, no? Poi contro la Finlandia il gorilla è andato via. Però non siamo ancora pronti per vincere una partita veramente difficile con un'avversaria forse più forte di noi, cosa che Israele e Lettonia non sono, forse più forte di noi come Montenegro. Allora, la tua sensazione dico che è abbastanza buona, perché comunque è giusta, perché comunque abbiamo fatto una fatica boia contro una squadra buona, non ottima, buona come quella con Israele, poi siamo andati in Lettonia un po' con la scimmia ancora sulle spalle e poi piano piano abbiamo iniziato a capire che invece alla fine è sport, è pallacanestro, bisogna prima di tutto divertirsi, essere leggeri, andare in campo e avere il piacere di giocare e di divertirsi, tant'è vero che con la Finlandia a sprazzi abbiamo fatto bene, ma abbiamo fatto molto bene, poi alla fine abbiamo vinto, e in Montenegro dove sembrava dovessimo trovarci davanti a dei fenomeni, no? Abbiamo trovato una squadra ottima che però abbiamo per 35 minuti messa sotto, giocando tranquillamente, con serenità, prendendoci i nostri tiri, difendendo, nonostante comunque gli avversari, una situazione, perché comunque eravamo in un campo assurdo, sì. Il viaggio che avevamo fatto, tante altre piccole cose. Vi hanno mandato a giocare nella steppa, Guarda, io non sono mai stato in una palestra di quel genere, sembrava di essere tornati indietro di 35 anni, anche se io ne ho 31, ma sembrava una palestra vista in televisione 25 anni fa, 30 anni fa. Posso dire anche che probabilmente Israele, la trasferta in Israele sarà la partita chiave della crescita di questa nazionale, per questo momento della crescita della nazionale. Perché non è solo per la crescita, ma anche per il fatto che a questo punto, visto che la Finlandia ha vinto con Israele, quindi ci sono un pochettino riaperti i giochi, noi puntiamo a tutte le partite del girone di ritorno, la prima è in Israele, ma anche le altre, per poter sperare e puntare al secondo posto, e se non è al secondo posto puntare perlomeno a poter andare l'anno prossimo a giocare l'ultimo posto per l'Europeo. Sì, Marco, molti pensavano che Simone Pianigiani avesse la bacchetta magica, da questo è nata secondo me una delusione che dopo le prime due partite, dopo le prime quattro, fino a questo punto valuto eccessiva, secondo me ci sono dei motivi per essere ottimisti. Anche secondo me, perché comunque siamo cresciuti, il gruppo piano piano inizia ad andare sulla strada giusta, secondo me, visto che il progetto è di più anni, speriamo di arrivarci, se non quest'anno, arrivarci l'anno prossimo, mettendo insieme ancora più cose, ancora più soluzioni, ancora più momenti difficili passati insieme, superati, per poter essere ancora più buoni. Pronti per l'Europeo. Non è facile, non è assolutamente facile, però continuando a lavorare come stiamo facendo con questo entusiasmo si può fare. Sì, però rispetto a un anno fa, Marco, l'aria è diversa. Tu c'eri un anno fa, c'eri due anni fa. Rispetto a un anno fa, al di là del fatto, non voglio dire che la colpa fosse tutta di Charlie Recalcati, ci mancherebbe altro, però un'inversione di tendenza secondo me c'è stata. Guarda, poi colpa mia che non l'ho sottolineato, perché forse lo davo per scontato, perché visto che comunque in questo mese e mezzo si è sempre detto, però effettivamente c'è un grandissimo entusiasmo, c'è tutta un'altra area, i giocatori, cioè ognuno di noi sa quello che deve fare, c'è un'altra atmosfera non solo in campo ma anche nella vita che si vive al di fuori, 360 gradi, perché comunque non è come in un club dove stacchi la finisci l'allenamento, stacchi la spina e vai a casa tua, qui si continua a vivere sempre in tutti insieme e c'è tutta un'altra atmosfera. Per chiudere, Marco, adesso sei lì tuffato nell'azzurro con i galloni sul braccio, poi però torni a Milano e c'è l'Armani. La nuova Armani come ti sembra? Intanto abbiamo rubato un pezzo, un tuo socio. già, ve l'ho ceduta al calciomercato, al basket mercato. Guarda, non ho ancora messo... non c'è ancora pensato? No, assolutamente, perché in questo momento qua la nazionale è la cosa più importante. Però mi fa piacere quello che hanno fatto, cioè la prima cosa che hanno fatto, cioè di mantenere un gruppo che è quello dell'anno scorso. Abbiamo perso solo alcuni, tipo Mike che era già scritto, o comunque sì. Viciano che è andato a fare esperienza, però il gruppo importante, io, Meso, Mancio, Fille, Petravicius, Maciulis è rimasto, e questa è una gran bella cosa, sono molto contento. In più è tornato David che era, ci aveva tradito per un anno, quindi sono molto soddisfatto. Marco, un abbraccio, a presto, t'aspetto un abbraccio qui. Anche a voi. T'aspetto qui, in bocca al lupo alla nazionale, poi tanto di qua devi ripassare. Grazie a Marco Mordente. Grazie a voi, ciao. Ciao, ci fermiamo, traffico e poi di nuovo qui. A tempo di sport. Mi mando un sacco di messaggi anche sul basket come questo di Giacomo. Atmosfera o no, sinceramente la nazionale al momento 1-3, una vittoria, 3 sconfitte in un girone con squadre poco più che medie. Sarò troppo negativo, ma i dati non sono incoraggianti, stando ai numeri è vero, ma quello che dicevo prima vale, lo penso ancora, nel senso che non credo che Israele e Lettonia, che ci hanno battuti, siano più forti di noi, siano più forti della nazionale italiana, soprattutto la Lettonia. Credo che questa nazionale abbia giocato le prime partite con una paura pazzesca addosso. Quando si innescano questi trend negativi è duro invertirli. La vittoria in una partita non bella come quella con la Finlandia, partita che l'Italia era comunque costretta a vincere, ha un po' forse invertito questa tendenza. In Montenegro, insomma, stando a quanto ci ha raccontato Marco Mordente, stando a quanto abbiamo letto, perché la partita non l'abbiamo vista, come sapete, si è giocato una gara incoraggiante. Torno a ripetere, la prossima partita contro Israele secondo me sarà la gara chiave in questo processo di crescita, perché se è vero che l'Italia ha fatto qualche passo avanti, in Israele andrà a vincere e per vincere. Vi do intanto, sempre in chiave azzurra, un'altra notizia che arriva da Budapest, dagli europei di nuoto, che insomma stanno andando molto bene per l'Italia. Bene, continuiamo su questa onda. Michele Benedetti e Tommaso Marconi si sono qualificati per la finale dei tuffi nel trampolino 3 metri agli europei. I due azzurri hanno chiuso la serie di tuffi preliminari rispettivamente con il secondo punteggio e con il nono. La finale in programma stasera alle 19, quindi se tutto va bene qui potrebbero esserci altre medaglie. Tanto continuo a parlare con gli ascoltatori. Salvatore da Sassari, buongiorno. Dottor Gianda, buongiorno. Salve. Premetto che sono juventino. Sì. Niente meno dal febbraio del 52. Sì. Non è poco. Perché, no, non è poco, la squadra non si cambia mai, giusto? quindi volevo sapere se era possibile sapere un po' degli acquisti, quelli già fatti e quelli che dovranno poi arrivare eventualmente. Della Juve, se può. Sì, ma guardi, su quelli che sono già arrivati, sono Bocchetti, sono Pepe, sono Lanzafame, sono questi giocatori che conosciamo. Buoni acquisti, non ingaggi, secondo me, in grado di garantire alla Juventus un salto di qualità definitivo. Però lì è ancora tutto in movimento. Diego andrà via al Wolfsburg o allo Schalke 04, ancora non si è capito benissimo, però tornerà da dove è arrivato in carrozza un anno fa, cioè in Germania. E poi la Juventus, con i denari incassati dalla cessione di Diego, provvederà al colpo del mercato, al colpo del più significativo del suo mercato, che potrebbe essere Krasic, che potrebbe essere Elia insieme a Bastos. Insomma, i nomi che si fanno sono questi. Io non credo che la Juventus potrà mettere le mani su Dzeko, perché il Wolfsburg non lo molla, perché ci vogliono molti soldi, eccetera eccetera. Dunque la Juventus, che tra l'altro stasera vedremo all'opera in questo triangolare di Bari, con il Milan che recupera Ronaldinho, con l'Inter che invece sostituirà già da stasera Balotelli, che ha firmato oggi per il Manchester City. Insomma, triangolare estivo che lascia lo spazio che trova, ma tanto tra un paio di settimane è campionato e ricominceremo a parlarne sul serio. Dunque, adesso vorrei darvi i primi risultati che cominciano ad arrivare dalla Repubblica Ceca, dove nel weekend c'è il Moto Mondiale. Sport e motori. Oggi è il giorno delle prove libere, domenica dopo la corsa sarà invece il giorno di Valentino Rossi in rosso ufficialmente alla Ducati. Per quanto riguarda le prime prove libere in Repubblica Ceca, hanno girato le 125 in attesa delle due classi superiori. Ebbene, nella 125 lo spagnolo Nico Terol su Aprilia è stato il più veloce, con il tempo di 2.08 e 0.10, secondo l'inglese Bradley Smith. Poi Marc Marquez sulla Derby, lo spagnolo leader del mondiale, è caduto poco dopo l'esposizione della bandiera a scacchi, sbattendo violentemente il braccio sinistro. Solo ventesimo Simone Groschi Giorgi su Aprilia, davanti a Lorenzo Salvatore su Aprilia, Luigi Morciano sempre su Aprilia, ultimo dei qualificati Alessandro Tonucci sull'ultima delle Aprilia. Come detto, invece domenica sarà il giorno di Valentino Rossi in Ducati. È un segreto di Pulcinella, tanto ne abbiamo parlato in questi giorni, è una delle notizie dell'estate, sarà il movimento, insomma, il mercato del moto mondiale mi sembra un po' il domino, no? Valentino Rossi, passando in Ducati, innesca una sarabanda, una rumba di passaggi da una scuderia all'altra, che cambieranno profondamente la faccia del prossimo moto mondiale. Valentino Rossi ovviamente domenica correrà sulla Yamaha, non sarà in condizioni fisiche perfette perché come sappiamo quel piede non è ancora guarito, però è un Valentino Rossi che dice: magari non sarà ancora il giorno giusto per tornare alla vittoria, ma ci proveremo. Ieri ha parlato a lungo Valentino Rossi, sentiamo alcune delle cose che ha detto. Credo che l'annuncio ci sarà domenica dopo la gara, e così si saprà cosa farò gli anni prossimi. Più tempo passa, più sto meglio. Sono potuto stare a casa a allenarmi, a prepararmi per questa gara e mi sento abbastanza meglio sia con la gamba che con la spalla. Penso di essere, il dottore hanno detto, 65% come spalla e gamba. Il resto sono piuttosto in forma. Questo era Valentino Rossi, ma io in questi giorni ho sentito pochi ascoltatori parlare di questo trasferimento. Ne abbiamo molto parlato con gli addetti ai lavori, eppure mi sembra una notizia che meriterebbe di essere commentata, questa del passaggio di Valentino Rossi alla moto italiana, alla Ducati. Intanto io volevo darvi la cronaca della giornata di Mario Balotelli in volo per Manchester. E c'è un altro aspetto che arriva dall'Inghilterra e che meriterebbe di essere considerato, e cioè le grandi difficoltà che Fabio Capello sta trovando nel conservare la sua panchina sulla nazionale inglese. Adesso gli stanno facendo un mazzo così, oggi l'hanno definito lunatico, perché ha dato il ben servito a David Beckham. Mi risulta che anche in Inghilterra non siano in un momento di eccessiva produzione di talenti locali. Quanto a Mario Balotelli, invece, al di là della questione di Beckham, per cui verrà organizzato in fretta e furia un amichevole di ben servito e di commiato, con Beckham che ha detto però io quella maglia, questo gli fa grande onore, io quella maglia non rinuncerò mai per mia volontà. Ebbene, da Beckham a Balotelli, Beckham che lascia la nazionale, Balotelli che invece è arrivato a Manchester. Oggi sui siti c'è tutta la cronaca della prima giornata inglese di Mario Balotelli. È arrivato con Minoraioli in Inghilterra, volo privato, partito questa sera da Malpensa. È arrivato al City, ha fatto le visite mediche, sta per firmare il contratto e non so se riuscirà a debuttare in una Premier League che comincia domani. Lo scopriremo però, perché questo weekend sarà quello della Premier League. Già vi annuncio che lunedì, prima di salutarvi e di andarmene un po' in vacanza lasciando il microfono a Massimo Callegari, dedicheremo una puntata ai campionati che sono cominciati, come quello francese, che stanno per cominciare, come quello inglese, come la Bundesliga, a quelli che cominceranno, come il campionato italiano e il campionato spagnolo. Latini, come al solito, i soliti pigri, gli ultimi a cominciare. Dunque lunedì ci dedicheremo a questi argomenti, oltre ai risultati del moto mondiale e al weekend di Brno. Non mi resta che salutarvi. Adesso io saluto Raul Ranossi per il lavoro in redazione, Fabio Cantadori in regia. A Tempo di Sport non va in vacanza, vi ricordo domenica dalle 16.30 alle 17 l'appuntamento a questi microfoni con Massimo Di Scienza per Speciale Motori, per commentare a caldo i risultati in diretta, i risultati del moto mondiale a Brno. Quindi lunedì questa puntata speciale dedicata ai campionati stranieri, e poi A Tempo di Sport non va in vacanza, sempre in diretta con voi per tutta l'estate. Buona giornata.